celebrity, because stop worshiping these fucking people. They all suck. Arma G 2016, stronzi. Se volete assumere la persona di ciò che vado criticando, queste sono offese personali. Odio gli scoppiati, commercializzati, in giro con catene a 24 carati. Si vantano col rap di quanto son bruciati, stolti beati, anestetizzati. Vedi i vostri figli e già sono legione, col mito del G che fa il disco in prigione. Nati nei 90 in fissa per il gangsta, si fumano la bamba per svuotarsi la testa. Io è dai 90 che spaccio questa roba. Tu non la conosci perché non è mai di moda. Fai tanto il nichilista che si fa una pista, mentre la paura ti annebbia la vista. Sei terrorizzato dalla grande oscurità, per questo ti rifugi nella mediocrità. Ma per me lo scopo dell'umanità è farsi compagnia in questa immensità. Vengo dalla strada ma seguo la mia strada. Tu col dling dling dling, io col Tao Te Ching. Come un assassino mi muovo alle tue spalle, armato di concetti per cui tu non hai le palle. L'orrore che mi tocca affrontare ogni mattina, che mi toglie il respiro dalla sera prima, è lo stesso che alimenta la tua vita di sfigato. Tu falso ribelle al servizio dello Stato. Al servizio dello Stato. La droga l'ho fumata, l'ho pippata, l'ho spacciata. Ricordo il 98, minchia che annata. In giro per le strade, le piazze e i giardini, a farsi le canne seduto sui gradini. Scariche di tubi all'anfiteatro, arrancavo allucinato dentro un bosco atro. Serate sul piatto, a casa degli amici, strafatto di paste al Jay's, che ne dici? Stavo al top di un'elite di fumatori. Chi non era come noi, lo lasciavamo fuori. Progettavo rapine, assieme ai miei sodali. Arrestati per spaccio, finivamo sui giornali. Per fortuna a Firenze c'era ancora il rock. Tiravamo verdure a chi faceva hip hop. Altrimenti a quest'ora ero proprio come te, a sparare cazzate con il gangsta rap. Vengo dalla strada ma seguo la mia strada. Tu col dling dling dling, io col Tao Te Ching. Come un assassino mi muovo alle tue spalle, armato di concetti per cui tu non hai le palle. L'orrore che mi tocca affrontare ogni mattina, che mi toglie il respiro dalla sera prima, è lo stesso che alimenta la tua vita di sfigato. Tu un servo del sistema con pose d'affiliato. Ma in fondo che mi frega della tua miseria, quando medito i misteri della materia, o quando trascendo la mia condizione durante una sessione di respirazione. Io con le sostanze cerco consapevolezza e prego che Dioniso mi conceda la sua grazia. Con la mente in alterazione spalanco le porte della percezione, sparo la mia mente verso il sacro con sostanze psicotrope, sessioni olotropiche. Mi apro all'ignoto, lo accolgo grato. Le ansie e le paure si fanno microscopiche, lo so che non capisci, mi dispiace tanto. Vorrei poterti dare tutto quello che ho dentro, invece ti lascio amarci nell'ignoranza, preda di carnefici che vendono speranza. Vengo dalla strada ma seguo la mia strada. Tu col dling dling dling, io col Tao Te Ching. Come un assassino mi muovo alle tue spalle, armato di concetti per cui tu non hai le palle. L'orrore che mi tocca affrontare ogni mattina, che mi toglie il respiro dalla sera prima, ma è lo stesso che alimenta la tua vita di sfigato. Tu falso profeta illuminato.